Kraus. Quando piove si vorrebbe poter piangere. È novembre, piove già da 10 giorni e la terra è come il fondo di una palude. Ogni cosa di legno ha odore di funghi. Se potessi fare 10 passi a sinistra, c'è la tettoia, sarei al riparo. Mi basterebbe anche un sacco per coprirmi le spalle, o solamente la speranza di un fuoco dove asciugarmi, o magari un cencio asciutto da mettermi fra la camicia e la schiena. Ci penso, fra un colpo di pala e l'altro, e credo proprio che avere un cencio asciutto sarebbe felicità positiva. Ormai più bagnati non si può diventare, solo bisogna cercare di muoversi il meno possibile e soprattutto di non fare movimenti nuovi, perché non accada che qualche altra porzione di pelle venga senza necessità a contatto con gli abiti zuppi e gelidi. È fortuna che oggi non tira vento. Strano, in qualche modo si ha sempre l'impressione di essere fortunati, che una qualche circostanza, magari infinitesima, ci trattenga sull'orlo della disperazione e ci conceda di vivere. Piove, ma non tira vento. Oppure piove e tira vento, ma sai che stasera tocca a te il supplemento di zuppa, e allora anche oggi trovi la forza di tirar sera. O ancora, pioggia, vento e la fame consueta, e allora pensi che se proprio dovessi, se proprio non ti sentissi più altro nel cuore che sofferenza e noia, come a volte succede, che pare veramente di giacere sul fondo, ebbene, anche allora noi pensiamo che se vogliamo, in qualunque momento, possiamo pur sempre andare a toccare il reticolato elettrico o buttarci sotto i treni in manovra, e allora finirebbe di piovere. Da stamattina siamo confitti nella melma, a gambe larghe, senza mai muovere i piedi dalle 2 buche che si sono scavati nel terreno vischioso, oscillando sulle anche a ogni colpo di pala. Io sono a metà dello scavo, Kraus e Klausner sono sul fondo, Gounod sopra di me, a livello del suolo. Solo Gounod può guardarsi intorno, e a monosillabi avvisa ogni tanto Kraus dell'opportunità di accelerare il ritmo, o eventualmente di riposarsi, a seconda di chi passa per la strada. Klausner piccona, Kraus alza la terra a me palata per palata, e io a mano la alzo a Gounod, che la ammucchia a lato. Altri fanno la spola con le carriole e portano la terra chissà dove. Non ci interessa. Oggi il nostro mondo è questa buca di fango. Kraus ha sbagliato un colpo. Un pacchetto di mota vola e mi si spiaccica sulle ginocchia. Non è la prima volta che succede. Senza molta fiducia lo ammonisco di fare attenzione. È ungherese, capisce assai male il tedesco e non sa una parola di francese. È lungo lungo, ha gli occhiali e una curiosa faccia, piccola e storta. Quando ride sembra un bambino, e ride spesso. Lavora troppo, e troppo vigorosamente. Non ha ancora imparato la nostra arte sotterranea di fare economia di tutto, di fiato, di movimenti, perfino di pensiero. Non sa ancora che è meglio farsi picchiare, perché di botte in genere non si muore, ma di fatica sì, e malamente, e quando uno se ne accorge è già troppo tardi. Pensa ancora, oh no, povero Kraus, non è ragionamento il suo, è solo la sua sciocca onestà di piccolo impiegato. Se l'è portata fin qui dentro, e ora gli pare che sia come fuori, dove lavorare è onesto e logico, e inoltre conveniente, perché, a quanto tutti dicono, quanto più uno lavora, tanto più guadagna e mangia. «Regardez-moi ça, passi vite, idiot!» impreca Gounod dall'alto. Poi si ricorda di tradurre in tedesco. «Langsam du blöder, einer langsam verstanden!» Kraus può anche ammazzarsi di fatica, se crede, ma non oggi che lavoriamo in catena e il ritmo del nostro lavoro è condizionato dal suo. Ecco, questa è la sirena del carburo. Adesso i prigionieri inglesi se ne vanno. Sono 4:30. Poi passeranno le ragazze ucraine. E allora saranno 5. Potremo raddrizzare la schiena. E ormai solo la marcia di ritorno, l'appello e il controllo dei pidocchi ci divideranno dal riposo. È la dunata. Antreten da tutte le parti. Da tutte le parti strisciano fuori i fantocci di fango, stirano le membra aggranchite, riportano gli attrezzi nelle baracche. Noi estraiamo i piedi dal fosso, cautamente, per non lasciarvi succhiati gli zoccoli, e ce ne andiamo, ciondolanti e grondanti, a inquadrarci per la marcia di rientro. Zu dreien, per tre. Ho cercato di mettermi vicino ad Alberto. Oggi abbiamo lavorato separati. Abbiamo da chiederci a vicenda com'è andata, ma qualcuno mi ha dato una manata sullo stomaco. Sono finito dietro. Guarda, proprio vicino a Kraus. Ora partiamo. Il capo scandisce il passo con voce dura. Links, links, links. Da prima si ha male ai piedi, poi a poco ci si riscalda e i nervi si distendono. Anche oggi, anche questo oggi che stamattina pareva invincibile ed eterno, l'abbiamo perforato attraverso tutti i suoi minuti. Adesso giace, conchiuso, ed è subito dimenticato. Già non è più un giorno, non ha lasciato traccia nella memoria di nessuno. Lo sappiamo che domani sarà come oggi, forse pioverà un po' di più o un po' di meno, o forse invece di scavar terra andremo al carburo a scaricar mattoni, o domani può anche finire la guerra, o noi essere tutti uccisi o trasferiti in un altro campo, o capitare qualcuno di quei grandi rinnovamenti che, da che lager è lager, vengono infaticabilmente pronosticati imminenti e sicuri. Ma chi mai potrebbe seriamente pensare a domani? La memoria è uno strumento curioso. Finché sono stato in campo, mi hanno danzato per il capo due versi che ha scritto un mio amico molto tempo fa. In fin che un giorno senso non avrà più dire domani. Qui è così. Sapete come si dice mai nel gergo del campo? Morgen früh, domani mattina. Adesso è l'ora di links, links, links und links, l'ora in cui non bisogna sbagliare passo. Kraus è maldestro, si è già preso un calcio dal capò perché non sa camminare allineato, ed ecco, incomincia a gesticolare e a masticare un tedesco miserevole. Odi, odi, mi vuol chiedere scusa della palata di fango. Non ha ancora capito dove siamo. Bisogna proprio dire che gli ungheresi sono gente singolare. Andare al passo e fare un discorso complicato in tedesco è ben troppo. Questa volta sono io che lo avverto che ha il passo sbagliato, e lo ho guardato. Ho visto i suoi occhi, dietro le gocciole di pioggia degli occhiali, e sono stati gli occhi dell'uomo Kraus. Allora avvenne un fatto importante, e mette conto di raccontarlo adesso, forse per la stessa ragione per cui metteva conto che avvenisse allora. Mi accadde di fare un lungo discorso a Kraus, in cattivo tedesco, ma lento e staccato, sincerandomi dopo ogni frase che lui l'avesse capita. Gli raccontai che avevo sognato di essere a casa mia, nella casa dove ero nato, seduto con la mia famiglia, con le gambe sotto il tavolo e sopra molta, moltissima roba da mangiare. Ed era d'estate, ed era in Italia, a Napoli. Ma sì, a Napoli non è il caso di sottilizzare. Ed ecco, a un tratto suonava il campanello, e io mi alzavo pieno di ansia, e andavo ad aprire, e chi si vedeva? Lui, il cui presente Kraus Pali, coi capelli, pulito e grasso, e vestito da uomo libero, e in mano una pagnotta, da 2 chili, ancora calda. Allora, servus Pali, wie geht's? E mi sentivo pieno di gioia, e lo facevo entrare, e spiegavo ai miei chi era, e che veniva da Budapest, e perché era così bagnato. Perché era bagnato, così, come adesso. E gli davo da mangiare e da bere, e poi un buon letto per dormire. Ed era notte. Ma c'era un meraviglioso tepore, per cui in un momento eravamo tutti asciutti. Sì, perché anch'io ero molto bagnato. Che buon ragazzo doveva essere Kraus da borghese. Non vivrà a lungo qui dentro. Questo si vede al primo sguardo, e si dimostra come un teorema. Mi dispiace non sapere l'ungherese. Ecco che la sua commozione ha rotto gli argini e derompe in una marea di bislacche parole magiare. Non ho potuto capire altro che il mio nome, ma dai gesti solenni si direbbe che giura ed augura. Povero sciocco Kraus. Se sapesse che non è vero, che non ho sognato proprio niente di lui, che per me anche lui è niente, fuorché in un breve momento. Niente, come tutto è niente qua giù, se non la fame dentro e il freddo e la pioggia intorno. Die drei Leute vom Labor. Quanti mesi sono passati dal nostro ingresso in campo? Quanti dal giorno in cui sono stato dimesso dal CABE e dal giorno dell'esame di chimica e dalla selezione di ottobre? Alberto ed io ci poniamo spesso queste domande e molte altre ancora. Eravamo 96 quando siamo entrati, noi, gli italiani del convoglio 174.000. 29 soltanto fra noi hanno sopravvissuto fino all'ottobre, e di questi 8 sono andati in selezione. Ora siamo 21 e l'inverno è appena cominciato. Quanti fra noi giungeranno vivi al nuovo anno? Quanti alla primavera? Da parecchie settimane ormai le incursioni sono cessate. La pioggia di novembre si è mutata in neve e la neve ha ricoperto le rovine. I tedeschi e i polacchi vengono al lavoro con gli stivaloni di gomma, i copriorecchi di pelo e le tute imbottite, i prigionieri inglesi con i loro meravigliosi giubbetti di pelliccia. Nel nostro lager non hanno distribuito cappotti, se non a qualche privilegiato. Noi siamo un comando specializzato, il quale in teoria non lavora che al coperto, perciò noi siamo rimasti in tenuta estiva. Noi siamo i chimici, e perciò lavoriamo ai sacchi di fenilbeta. Abbiamo sgomberato il magazzino dopo le prime incursioni nel colmo dell'estate. La fenilbeta ci si incollava sotto gli abiti alle membra sudate e ci rodeva come una lepra. La pelle si staccava dai nostri visi in grosse squame bruciate. Poi le incursioni si sono interrotte e noi abbiamo riportato i sacchi nel magazzino. Poi il magazzino è stato colpito e noi abbiamo ricoverato i sacchi nella cantina del reparto stirolo. Ora il magazzino è stato riparato e bisogna accatastarvi i sacchi ancora una volta. L'odore acuto della fenilbeta impregna il nostro unico abito e ci accompagna giorno e notte come la nostra ombra. Finora i vantaggi di essere nel comando chimico si sono limitati a questi. Gli altri hanno ricevuto i cappotti e noi no. Gli altri portano sacchi di 50 kg di cemento e noi sacchi di 60 kg di fenilbeta. Come pensare ancora all'esame di chimica e alle illusioni di allora? Almeno 4 volte durante l'estate si è parlato del laboratorio del dottor Panvitz nel Bau 939 ed è corsa la voce che sarebbero stati scelti fra noi gli analisti per il reparto polimerizzazione. Adesso basta. Adesso è finito. È l'ultimo atto. L'inverno è incominciato e con lui la nostra ultima battaglia. Non è più dato dubitare che non sia l'ultima. In qualunque momento del giorno ci accada di prestare ascolto alla voce dei nostri corpi, di interrogare le nostre membra, la risposta è una: le forze non ci basteranno. Tutto intorno a noi parla di disfacimento e di fine. Metà del Bau 939 è un ammasso di lamiere contorte, di calcinacci. Dalle condutture enormi dove prima ruggiva il vapore surriscaldato pendono ora fino al suolo deformi ghiaccioli azzurri, grossi come pilastri. La buna è silenziosa adesso, e quando il vento è propizio, se si tende l'orecchio, si sente un continuo sordo fremito sotterraneo, il quale è il fronte che si avvicina. Sono arrivati in lager 300 prigionieri del ghetto di Lodz, che i tedeschi hanno trasferiti davanti all'avanzata dei russi. Hanno portato fino a noi la voce della lotta leggendaria nel ghetto di Varsavia e ci hanno raccontato di come già un anno fa i tedeschi hanno liquidato il campo di Lublino. 4 mitragliatrici agli angoli e le baracche incendiate. Il mondo civile non lo saprà mai. A quando la nostra volta? Stamane il capo ha fatto come al solito la divisione delle squadre. I 10 del clor magnesio al clor magnesio, e quelli partono, strascicando i piedi, il più lentamente possibile, perché il clor magnesio è un lavoro durissimo. Si sta tutto il giorno fino alle caviglie nell'acqua salmastra e gelata che macera le scarpe, gli abiti e la pelle. Il capo afferra un mattone e lo scaglia nel mucchio. Quelli si scansano goffamente, ma non accelerano il passo. E questa quasi una consuetudine, avviene tutte le mattine, e non sempre suppone nel capo un preciso proposito di nuocere. I 4 del Shai's House al loro lavoro, e partono i 4 addetti alla costruzione della nuova latrina. Bisogna infatti sapere che, da quando, con l'arrivo dei convogli di Lodz e di Transilvania, noi abbiamo superato l'effettivo di 50 Häftlinge, il misterioso burocrate tedesco che sovrintende a queste cose ci ha autorizzato alla erezione di uno Zweiplatzigeskommando Scheißhaus, vale a dire di un cesso a due posti, riservato al nostro comando. Noi non siamo insensibili a questo segno di distinzione, che fa del nostro uno dei pochi commandos a cui si avanto l'appartenere. È però evidente che viene così a mancare il più semplice dei pretesti per assentarsi dal lavoro e per intessere combinazioni coi civili. Noblesse oblige, dice Henri, il quale ha altre corde al suo arco. I 12 dei mattoni, i 5 di Maesterdam, i 2 delle cisterne. Quanti assenti? 3 assenti. Omolka, entrato stamane in Cabé, il fabbro, morto ieri. François, trasferito chissà dove, chissà perché. Il conto torna. Il capo registra ed è soddisfatto. Non restiamo ormai che noi 18 della Fenilbeta, oltre ai prominenti del comando. Ed ecco l'imprevedibile. Il capo dice: il dottor Panwitz ha comunicato all'Arbeitsdienst che 3 Häftlinge sono stati scelti per il laboratorio. 169509, Brachier. 175633, Kendall. 174517, Levi. Per un istante le orecchie mi ronzano e la buna mi gira intorno. Siamo 3 Levi nel comando 98, ma 174517 sono io, non c'è dubbio possibile. Io sono uno dei 3 eletti. Il capo ci squadra con un riso astioso. Un belga, un rumeno e un italiano. 3 Franzosen, insomma. Possibile che dovessero proprio essere 3 Franzosen gli eletti per il paradiso del laboratorio? Molti compagni si congratulano. Primo fra tutti Alberto, con genuina gioia, senza ombra di invidia. Alberto non trova nulla a ridire sulla fortuna che mi è toccata, e ne è anzi ben lieto, sia per amicizia, sia perché ne trarrà lui pure dei vantaggi. Infatti noi due siamo ormai legati da uno strettissimo patto di alleanza, per cui ogni boccone organizzato viene diviso in 2 parti rigorosamente uguali. Non ha motivo di invidiarmi, poiché entrare in laboratorio non rientrava né nelle sue speranze, neppure nei suoi desideri. Il sangue delle sue vene è troppo libero perché Alberto, il mio amico non domato, pensi di adagiarsi in un sistema. Il suo istinto lo porta altrove, verso altre soluzioni, verso l'imprevisto, l'estemporaneo, il nuovo. Ha un buon impiego, Alberto preferisce senza esitare gli incerti e le battaglie della libera professione.